Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel 1983, precisamente nell'estate del 1983, dopo che mi diplomai all'Istituto Tecnico Commerciale di Luino, in provincia di Varese, andai in vacanza per circa 4 settimane in Inghilterra e ci andai assieme a un giovane della comunità evangelica pentecostale che a quel tempo io frequentavo con i miei genitori. Benché ancora non fossi convertito, comunque i miei genitori mi portavano ormai da anni in quella comunità che si trovava a Lugano. E assieme a un giovane di questa, Lugano si trova in Svizzera, nel Ticino, nella parte italiana della Svizzera, assieme a questo giovane partimmo da Zurigo con l'aereo per andare in Inghilterra. Andare in Inghilterra, andammo in vacanza per circa 4 settimane presso l'istituto biblico di Burgess Hill, che si trova sostanzialmente tra Londra e Brighton, nella parte, diciamo, sud dell'Inghilterra. Io ero, diciamo, tra virgolette, innamorato dell'Inghilterra a quel tempo, della cultura inglese, della lingua inglese, che avevo studiato a scuola. E quindi volli andare in vacanza là. E mentre mi trovavo a Burgess Hill, in quell'istituto biblico che si chiama International Bible Training Institute, fu fondato nell'immediato dopoguerra da un famoso predicatore pentecostale di quel tempo che si chiamava Fred Squire, che ho scoperto alcuni anni fa era massone. D'altronde queste scoperte vanno poi riferite, ma la verità va detta. Naturalmente a quel tempo non sapevo nulla di tutto ciò. A quel tempo ero sulla via della perdizione e non conoscevo il Dio, ero senza Dio, ero schiavo del peccato. Ero un insensato, ero traviato. Ebbene, mentre mi trovavo in vacanza presso questo istituto biblico, perché lì praticamente ti permettevano, pagando un tot, di rimanere quanto volevi, noi fummo praticamente albergati in un container. Ma non solo io e il giovane che andammo lì a passare quel periodo di vacanza, ma anche altri, perché lì praticamente, dato che è internazionale come scuola biblica, ci vanno a passare le vacanze, ci andavano a passare le vacanze anche giovani di altre nazioni, come per esempio la Francia, come per esempio la Spagna, insomma là si incontravano giovani un po' di tutte le nazioni. Quindi noi eravamo come ospiti lì, stettimo lì come ospiti per circa 4 settimane. Alla fine di queste 4 settimane, precisamente l'ultima settimana di agosto, fu montata una tenda di evangelizzazione. Avete presente una tenda da circo? Ebbene, era una tenda di evangelizzazione. E questa tenda di evangelizzazione fu installata su un terreno lì vicino di questa scuola biblica, che era abbastanza, diciamo, fuori dal paese, e c'è ancora, esiste ancora questa scuola biblica pentecostale, però non apparteneva a una particolare denominazione, però ci andavano studenti un po' da tutto il mondo, perché era molto conosciuta, tuttora è molto conosciuta. Ci andavano studenti pentecostali, diciamo, di varie denominazioni. Per esempio potevi trovare studenti pentecostali delle Assemblee di Dio, o delle chiese Elim, pentecostali di varie denominazioni. Perché era una scuola biblica pentecostale che collaborava con varie denominazioni pentecostali. Comunque il fondatore era molto vicino alle assemblee di Dio inglesi. Comunque la dottrina è quella pentecostale. Ebbene, durante questa ultima settimana, quindi, come vi stavo dicendo, impiantarono questa tenda e sotto quella tenda, dopo pochi giorni, il Signore mi salvò. Fu lì che invocai il Signore affinché il Signore mi perdonasse e il Signore ebbe misericordia di me salvandomi. Quindi tornai in Italia nato di nuovo, nato da Dio. Ero tutto un altro giovane, considerate che io a quel tempo ancora avevo circa 18 anni. Tornai proprio che era una nuova persona. Come dice la scrittura, se dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura. Quindi era una nuova creatura. E dopo alcuni mesi, ritornai in Inghilterra. Questa volta in Inghilterra, a Londra, per lavorare per la CLC, ossia per la Crociata del Libro Cristiano, che dovete sapere è una grande, almeno a quel tempo era molto grande, una grande, diciamo, catena di negozi, di librerie praticamente evangeliche, molti negozi, diciamo, che vendevano libri evangelici. Era stata fondata questa missione in Inghilterra. Era nell'anno 84, perché io salii in Inghilterra di nuovo all'inizio dell'84 per starci alcuni mesi. Era molto molto conosciuta nel mondo intero e si stava andando molto diffondendo. Ebbene, io lì lavorai per, in cambio di vitto e alloggio, per circa 6 mesi. E lavorai in questo negozio che si trovava dietro la St. Paul Cathedral, la cattedrale di San Paolo, praticamente nella city di Londra, parte molto centrale. E naturalmente ebbi molte esperienze che contribuirono a fortificarmi nella grazia che è in Cristo, poi che fortificarono anche la mia, per mezzo delle quali la mia fede fu fortificata. E siccome che diciamo ero a contatto giornalmente con libri, non solo con Bibbie, perché lì venivano vendute Bibbie, tutte le versioni delle Bibbie che c'erano a quel tempo, lì venivano venduti commentari a Epistole o al Nuovo Testamento, insomma c'era veramente di tutto. Allora, alla fine di questo mio periodo in Inghilterra, volli comprare alcuni libri che mi portai con me in Italia, perché avevo intenzione di studiare la parola di Dio, sapendo che Dio m'aveva chiamato a predicare la sua parola. Quando tornai in Italia nell'estate, dopo che tornai in Italia nell'estate del 1984, poi dopo partì per il militare, praticamente nell'autunno dell'84, e poi al ritorno dal militare cominciai a studiare le scritture, cominciai proprio a dedicare all'investigazione delle scritture, mi dedicai alla preghiera ed anche al digiuno, perché naturalmente essendo pienamente convinto che Dio mi aveva chiamato a predicare la sua parola, dovevo prepararmi quindi per conoscere le scritture, che a quel tempo conoscevo ben poco delle scritture. E allora che cosa avvenne? Avvenne che mentre studiavo l'epistola ai Romani, com'è che la stavo studiando? La stavo studiando versetto dopo versetto, in quanto tra i libri che avevo comprato in Inghilterra, durante quindi il mio secondo soggiorno in Inghilterra, ce n'era uno che praticamente riguardava l'epistola di Paolo ai Romani. E l'autore di questo commentario all'epistola di, di Paolo ai Romani, commentava proprio versetto, diciamo, ogni versetto dell'epistola. E io naturalmente ero affamato della parola di Dio, volevo conoscerla sempre meglio, e un giorno arrivo a, a Romani capitolo 8, arrivo a Romani capitolo 8 e leggo, diciamo, con estremo interesse quello che appunto l'autore diceva in merito a queste parole dell'apostolo Paolo, capitolo 8, versetto, dal versetto 28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che egli ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ecco che, praticamente, leggendo quello che lui diceva, commentando queste parole, mi imbatto nella predestinazione. E lui cominciò a, diciamo, spiegare la predestinazione. E andando avanti, passando poi al capitolo 9, proseguì appunto nel parlare della predestinazione. E io rimasi meravigliato. Ma non solo meravigliato, ma mi rallegrai molto nel constatare che quello che lui diceva era scritto, non era niente di inventato, perché io quando leggevo i vari commentari, i vari libri, chiaramente io cercavo sempre di esaminare le scritture per vedere se le cose stessero come io leggevo nei commentari. Non è che io assimilavo quello che leggevo nei commentari senza esaminare le scritture. No, le scritture io le esaminavo del continuo per vedere se quello che era scritto nei commentari fosse vero. E c'erano delle cose che effettivamente nei vari commentari che leggevo non erano vere. Però, leggendo appunto quello che diceva questo autore sulla predestinazione, andando a verificare quello, diciamo, che lui diceva nelle scritture, io riscontravo che era scritta la predestinazione nella Bibbia. Ora, considerate che il Signore mi ha salvato in un ambiente pentecostale che rigettava e rigetta tuttora la predestinazione, ossia il proponimento dell'elezione di Dio, perché l'ambiente pentecostale nel quale il Signore mi ha salvato, nel quale sono cresciuto nei primi tempi, è un ambiente wesleyano, in altre parole, che si attiene alla posizione di John Wesley, il predicatore inglese, metodista peraltro, metodista, il quale era assolutamente contrario alla predestinazione e esaltava il libero arbitrio, il cosiddetto libero arbitrio, sostanzialmente la dottrina che dice che l'uomo si crea il destino da sé. Ora, le denominazioni pentecostali, come per esempio le Assemblee di Dio, le Elim e così via, e tante altre, hanno una posizione wesleyana contro la predestinazione, quindi sostengono il cosiddetto libero arbitrio, che è una falsa dottrina, perché non è assolutamente vero che l'uomo si crea il destino da sé. Quindi io, venendo da quell'ambiente, quando mi ritrovai davanti a questo insegnamento biblico, ma io rimasi meravigliato per il fatto che non ne avevo mai sentito parlare. Infatti la comunità dove che io frequentavo a Lugano mai aveva parlato della predestinazione. Quindi io rimasi meravigliato, la mia fu veramente un grande stupore quello che provai quando trovai nella Bibbia la predestinazione. Ma non solo rimasi stupito, ripeto, ma provai una gioia veramente grande, una gioia gloriosa, una gioia meravigliosa. Perché? Perché quello che leggevo in merito al proponimento dell'elezione di Dio era confermato da come Dio aveva operato nella mia vita. Io, benché fossi figlio di credenti, io, diciamo, per molti anni camminai nelle tenebre, per molti anni fui sulla via della perdizione, però nonostante tutto ciò sentivo un'attrazione a Gesù, verso Gesù, mi sentivo attirato a Gesù, non potevo non pensare a Gesù, a ciò che lui aveva fatto, morendo sulla croce per i nostri peccati. Non potevo non pensare alla sua resurrezione, non potevo non pensare al senso della vita senza il Signore. Mi consideravo veramente un giovane che stava sprecando la sua vita al servizio del peccato. Non solo, mi consideravo anche un peccatore sulla via della perdizione, sapevo che se fossi morto in quella condizione spirituale sarei andato all'inferno. Ma nonostante tutto questo, e sapevo anche di essere un ipocrita perché andavo in giro a dire che ero un cristiano evangelico, lo dicevo a scuola, lo dicevo quando andavo a giocare a pallacanestro e così via, mi presentavo come un cristiano evangelico. Ma io che avevo del cristiano evangelico? O meglio del cristiano? Avevo solo il nome, perché ero un ipocrita, facevo una vita a servizio del peccato. Ebbene, io, benché fossi sotto il peccato, benché mi rendessi conto che fossi un peccatore sulla via della perdizione, io mi sentivo attirato a Gesù. Ed era un'attrazione forte che provavo in qualsiasi momento della giornata, anche quando ero solo. Cioè, io sapevo che dovevo ravvedermi e credere nel Signore Gesù Cristo per essere salvato, per ottenere la remissione dei miei peccati, per ottenere la vita eterna. Lo sapevo. Ed ero preso dalla paura della morte. Durante la notte avevo gli incubi, perché praticamente sapevo che se fossi morto nei miei peccati sarei andato all'inferno. Avevo proprio degli incubi, mi svegliavo, mi ricordo certe mattine sudato, spaventato, perché avevo proprio veramente degli incubi. Mi ricordo certe volte sognavo veramente di sprofondare in un abisso, una sensazione veramente spaventevole. Ero preso dalla paura della morte. Ebbene, io mi sentivo attirato a Gesù, ma vorrei dire di più, mi sentivo perseguitato dal Signore. In che senso? In qualsiasi momento della giornata era come se il Signore venisse alla mia ricerca. Era una sensazione particolare. E io ero come se volessi sfuggire, no, a Lui, come se non volessi essere afferrato da Lui. Lui cercava di afferrarmi, avevo questa sensazione, intendiamoci, sto usando questa metafora per farmi capire il meglio possibile. Era come se lui cercasse di afferrarmi, ma io sfuggivo alla sua mano benevola, naturalmente. Io sapevo che dovevo nascere di nuovo, sapevo che ero morto nei miei falli e nei miei peccati, e sentivo dentro di me sempre questo richiamo al ravvedimento, a nascere di nuovo, a smettere di fare quella vita inutile. Insomma, io sapevo quello che dovevo fare. D'altronde, frequentando i culti da tanti anni, avevo sentito parlare di Gesù. Ma io resistevo. Finché appunto venne quel benedetto giorno, era di sera peraltro, in cui sotto quella tenda, Bergesil, il Signore aprì il mio cuore per rendermi attento alle cose che furono dette quella sera. Il Signore quella sera mi dette il ravvedimento. Mi fece forza e mi vinse, e mi dette di credere nel suo figliolo. Fu qualcosa, quello che sperimentai, che venne dall'alto, non venne da me, venne dall'alto. E quando il Signore mi salvò e mi perdonò, mi ricordo che sentii come un peso che rotolò via dalle mie spalle. E mi sentii per la prima volta nella mia vita libero. Mi sentii per la prima volta nella mia vita un figliuolo di Dio, lavato nel sangue prezioso di Cristo Gesù. Mi sentii per la prima volta nella mia vita sicuro di avere la vita eterna. Sapevo in quel momento, seppi in quel momento che avevo la vita eterna, quando credetti nel Signore Gesù Cristo. Sapevo che se fossi morto in quel preciso momento, il Signore avrebbe salvato la mia anima nel suo regno celeste. Sapevo di essere stato giustificato per fede. Sapevo tutto questo. Perché? Perché avevo creduto, o meglio, mi ero ravveduto e avevo creduto nel Signore Gesù Cristo. È vero, in quel momento non avevo la conoscenza biblica che ho adesso, ma è normale. Però avevo il figliuolo di Dio, e chi ha il figliuolo ha la vita, e io avevo la vita nel Signore Gesù Cristo, non solo la vita, ma avevo ogni cosa pienamente in Lui, pienamente convinto di tutto ciò, tornai dunque in Italia, ed ero veramente una persona trasformata, una persona nata di nuovo, una persona che parlava in maniera completamente diversa, tant'è che questo fu notato dai miei amici, fu notato immediatamente, perché quando nasci di nuovo i tuoi amici notano subito che sei diventato, che sei diverso, perché non sei più lo stesso, è vero, non ero più lo stesso. Allora, vi stavo dicendo che quando scoprii il proponimento dell'elezione di Dio nella Sacra Scrittura, mi rallegrai e detti gloria a Dio, perché dissi, adesso comprendo perché tu, Signore, facesti sì che io non morissi poche settimane prima che mi salvassi, perché dovete sapere questo, che io prima di recarmi in Inghilterra, pochi giorni prima di recarmi in Inghilterra con quel appunto mio amico, con quel mio compagno di quella comunità, mentre mi trovavo in una fonte d'acqua nel Ticino, nella Valle Maggia, era estate, io rischiai di morire annegato perché mi tuffai nella conca d'acqua, là, gelata nel senso con un'acqua freddissima, e a un certo punto cominciai ad affondare. E un giovane che era lì, diciamo, della nostra compagnia, si buttò in acqua, vedendomi appunto in pericolo di vita, si buttò in acqua, si chiamava Noè, si chiama tuttora Noè, per cercarmi di salvarmi, però non ce la faceva. E allora avvenne che un altro giovane di quella compagnia, che era sempre della comunità che frequentavamo lì, comunità di lingua italiana a Lugano, che si trovava in quella conca però a una certa distanza, sotto la cascata, mi ricordo ancora, partì da dove si trovava e con ampie falcate era un esperto nuotatore, venne da me e mi disse quello che dovevo fare esattamente, come lo dovevo prendere con le mani, mi disse di stare calmo, io stavo morendo, vidi la morte a faccia, però in quel momento ero lucido, ero ancora lucido, e lui mi disse quello che dovevo fare, lo afferrai nella maniera esatta in cui lui mi disse di farlo e mi proprio portò fuori dall'acqua in pochissimo tempo. Questo giovane si chiamava e si chiama Fabio. E Dio si usò di lui per tirarmi fuori dall'acqua e impedire che io morissi annegato. Ebbene, io quando scoprì il proponimento delle azioni di Dio, alzai gli occhi al cielo e dissi: Signore, adesso comprendo perché tu hai impedito che io quel giorno morissi annegato. Perché? Perché dovevo essere salvato. Perché tu mi avevi predestinato, tu mi avevi eletto in Cristo prima della fondazione del mondo. Quindi non potevo morire nei miei peccati, ma dovevo essere salvato dai miei peccati. E quindi questa è la maniera in cui Dio mi fece accettare quello che la Sacra Scrittura chiama il proponimento dell'elezione di Dio, che, come dice la Sacra Scrittura, dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. E naturalmente, leggendo l'Epistola ai Romani con questa nuova vista, diciamo, o meglio, con questo intendimento, è chiaro che cominciai veramente a divorarmi quei capitoli che dove c'erano questi riferimenti al proponimento delle lezioni di Dio, perché poi ci sono dei riferimenti anche nel capitolo 11, quindi non solo nel capitolo 8, ma anche nel capitolo 9, nel capitolo 11 dell'Epistola ai Santi di Roma. E poi, naturalmente, investigando anche le altre scritture, scoprì molti altri riferimenti biblici che confermavano il proponimento dell'elezione di Dio, come quello scritto negli Atti degli Apostoli, dove c'è scritto: tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Capitolo 13, versetto 48 degli Atti degli Apostoli, uno dei versetti più odiati da coloro che sostengono la menzogna del libero arbitrio. E poi naturalmente scoprì appunto che il mio nome è scritto nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo, e quindi capì che era sbagliato cantare c'è ora un nome nuovo scritto in gloria, no? Sapete che c'è un cantico che viene cantato ancora oggi ai battesimi, secondo il quale appunto in quel giorno, nel giorno del battesimo del credente, il Signore scrive il suo nome nel libro della vita. Non è assolutamente vero, i nostri nomi sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo. Quindi la scoperta, o lo meglio l'accettazione del proponimento delle lezioni di Dio, ha avuto un impatto enorme nella mia vita, notevole, perché da quel giorno ho cominciato a vedere tante cose nella maniera giusta, non più in una maniera sbagliata come avevo fatto nel passato. Per esempio, compresi che, dato che non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, compresi, queste sono parole scritte nell'Epistola ai Romani, compresi che la salvezza delle persone non dipende da noi, non dipende da noi, benché noi preghiamo, desideriamo che i peccatori siano salvati, ma non dipende da noi la loro salvezza, ma dipende dal Signore, perché Egli fa misericordia a chi vuole. Infatti Dio disse a Mosè: farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà. e questo mi liberò da un fardello, da un peso che mi avevano messo addosso, sin dall'inizio. Perché praticamente nell'ambiente pentecostale che frequentavo ti facevano sentire in colpa se tu, come dicevano allora, non portavi anima a Gesù. Perché avevano sempre questo, diciamo, come si dice, questo vanto alcuni, no? Sai, io ho portato tot anime a Gesù. A parte il fatto che non sei tu che porti anime a Gesù, ma è Dio che attira le anime a Gesù. Quindi smetti di usare questa espressione. Tu puoi dire che Dio ti ha usato per attirare quell'anima a Gesù, ma ricordati, l'opera la compie Dio, è Dio che attira quell'anima a Gesù, e quell'anima va a Gesù perché è ordinata a vita eterna, perché il Padre ha deciso di darla a Gesù, e quindi il Padre gli dà di andare a Gesù, e tu sei semplicemente uno strumento di cui Dio si usa. Per parlare di Gesù, ma colui che attira quell'anima preordinata a vita eterna, ricordatelo, è Dio. Quindi non ti attribuire qualcosa che appunto non ti appartiene. Te lo dico per avvertirti per il tuo bene, perché se tu ti attribuisci qualcosa che appartiene a Dio, il giudizio e la sentenza di Dio ti piomberanno addosso. Quindi ascolta quello che ti dico. E dunque questa è una delle cose che imparai immediatamente. Dissi, ma allora quello che mi tocca fare è semplicemente annunziare Cristo Gesù. Poi sarà il Signore a dare il ravvedimento, a dare la fede in colui che ascolta, se costui è ordinato a vita eterna, se costui è predestinato ad essere adottato come figliolo di Dio. Il Dio sicuramente gli darà di ravvedersi e gli darà di credere nell'Evangelo di Cristo. Per me questo fu una liberazione. Per me questa fu una liberazione. E poi, naturalmente, compresi tante altre cose, per esempio quanto fosse fallace la preghiera della salvezza che viene fatta recitare in tante riunioni di evangelizzazione. Voi sapete, no, che cosa avviene, chi vuole accettare Gesù alzi la mano, dica queste parole, poi gli mettono in bocca delle parole, ma non è così che il Signore, non è così che il Signore opera. Il Signore opera nel peccatore in una maniera meravigliosa. Il Signore opera in lui in maniera da attirarlo a Gesù. E quell'anima va a Gesù invocando Gesù affinché sia salvata. Ma lo fa lui per volontà di Dio, perché Dio opera in quell'uomo, in quella donna, il suo volere e il suo operare. Quando il Signore mi salvò, infatti, io non recitai una preghiera precostituita da qualcuno, ma io veramente mi sentii spinto da Dio. Mi ricordo ancora come piangendo, alzando gli occhi al cielo, avevo gli occhi chiusi, piangevo, dicevo: Signore, salvami, sono un peccatore. Chi mi mise quelle parole sulla bocca? Sicuramente non il predicatore di turno quella sera, ma fu il Signore che appunto mise quelle parole nella mia bocca. Io invocai il Signore e il Signore mi salvò, perché dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non recitai nessuna preghiera di salvezza, non andai avanti, affinché pregassero per me. No, no, sul posto, là dove ero, in piedi, mi ricordo ancora anche il posto dove mi trovavo in quella tenda, chiusi gli occhi, invocai il Signore. Per la prima volta nella mia vita mi umiliai davanti all'Iddio vivente e vero, riconobbi di essere un peccatore nel suo cospetto, e lo invocai affinché il Signore avesse misericordia di me, affinché il Signore mi perdonasse, perché ero pieno di peccato. E il Signore, nella sua fedeltà, mi perdonò, mi lavò, mi imbiancò, e io ancora gli rendo grazie, la lode, la gloria, l'onore che gli appartengono, ancora oggi, È come se fosse avvenuto ieri questa cosa meravigliosa. Ce l'ho ancora così vivida, così, diciamo, la scena è così viva nella mia vita che non dimenticherò mai quei momenti che appunto il Dio volle per nella mia vita, appunto perché il Dio così aveva decretato. E quindi compresi che io non dovevo fare appelli, vieni adesso ti faccio recitare una preghiera, una preghiera di salvezza, no, è il Signore che spinge il peccatore, che appunto lui ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, lo spinge con la sua potenza a invocare il Signore, gli dà di ravvedersi, di credere nel Signore Gesù Cristo, gli dà di invocare il nome del Signore Gesù, fa tutto il Signore. Colui che dunque predica si deve limitare ad annunziare il ravvedimento e l'Evangelo. Si deve limitare a esortare chi ascolta a ravvedersi, a credere nell'Evangelo. Poi il Signore opererà. Il Signore opererà potentemente in coloro che sono ordinati a vita eterna. Gli darà di ravvedersi e di credere nell'Evangelo. Vedete, anche questo, diciamo, è stato veramente qualcosa di molto importante che ha prodotto l'accettazione del proponimento delle lezioni di Dio. E poi la riconoscenza. Ah, l'accettazione del proponimento delle lezioni di Dio mi ha fatto veramente diventare ancora più riconoscente nei confronti di Dio, perché veramente davanti all'opera sua non mi rimaneva altro di dire Signore grazie. Signore grazie veramente perché tu veramente hai compiuto tutto ciò nella mia vita, perché così avevi innanzi determinato. Tu, soltanto tu potevi fare questo, non è venuto dunque da me, infatti non dipende da chi vuole, non dipende da chi vuole, quindi l'uomo ha una volontà, non sto negando che l'uomo ha una volontà, attenzione, ma la volontà dell'uomo non è sovrana, la volontà dell'uomo è soggetta alla volontà di Dio, che c'ha la preminenza, che è sovrana, infatti la Bibbia dice, il Signore ha detto a Mosè, io farò grazia a chi vorrò fare grazia. Allora davanti a queste parole, io dissi, ma Signore, ma allora veramente per grazia? Ma allora è veramente per grazia che sono stato salvato? Adesso capisco cosa significa che sono stato salvato per grazia, perché tu hai voluto farmi grazia. Non è dipeso da me, ma da te. E allora, sapete, questo pensiero mi commosse e piansi davanti a Dio e dissi, Signore, veramente, tu sei meraviglioso, la tua grazia è meravigliosa. E quindi è chiaro che l'accettazione del proponimento dell'elezione di Dio in me produsse un cambiamento in meglio, ma proprio in meglio. E poi naturalmente trovai così tante conferme nella Sacra Scrittura che dissi, ma che è successo qua? Come mai l'hanno fatta sparire la predestinazione dalle nostre chiese, dicevo? Allora compresi che era stato, diciamo, c'era stata una macchinazione satanica contro questa parte del Consiglio di Dio. A quel tempo non conoscevo nulla della massoneria, del pensiero massonico e così via, ma adesso ho capito chi è che ha tolto il proponimento dell'elezione di Dio dai pulpiti. I massoni. Perché, voi direte? Perché i massoni esaltano il libero arbitrio. Infatti John Wesley, che viene definito l'apostolo del libero arbitrio, era massone. Sì, quel predicatore inglese. Che devo dire non mi era mai piaciuto. Non lo so, ma non avevo mai sentito un'attrazione verso questo predicatore, sin dall'inizio. Questo predicatore inglese era un massone, e i massoni sono per il libero arbitrio. Non ne vogliono sentire parlare di predestinazione, di proponimento delle lezioni di Dio. Infatti hanno trovato, la massoneria ha trovato nel movimento pentecostale di matrice wesleyana proprio un terreno fertile per iniettare il cosiddetto libero arbitrio. E infatti voi sapete che i massoni promuovono il libero arbitrio dicendo: Dio ha fatto l'uomo totalmente libero, è l'uomo che sceglie, è l'uomo che sceglie di essere salvato o di non essere salvato, E poi vedete infatti sulle magliette, soprattutto nel giorno del battesimo, in tante comunità pentecostali, ho scelto Gesù. Ma cosa hai scelto, ignorante, insensato, che non sei altro? Se tu sei un vero credente, se sei un discepolo di Gesù, devi sapere che non sei tu che hai scelto Gesù, ma è Gesù che ha scelto te. Gesù disse: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Vi ho scelti di mezzo al mondo. Quindi, se vuoi appunto proclamare la verità, togliti quella maglietta, ho scelto Gesù, e magari mettiti un'altra maglietta con su scritto Gesù ha scelto me. Allora sì che andiamo d'accordo. Ma fino a quando ti metterai a dire io ho scelto Gesù, ma cosa hai scelto Gesù? Se Gesù non avesse scelto te, tu dove saresti oggi? Saresti sicuramente ancora sotto il peccato, te lo posso assicurare, non saresti sotto la grazia, saresti sotto il peccato, quindi ringrazia il Signore per averti scelto, perché da quello che ho capito tu ti ringrazi da te stesso, è come se ringraziassi te stesso tu quando dici ho scelto Gesù, ma cosa hai scelto Gesù? Questo è appunto il modo di parlare dei massoni, che sono appunto dei promotori veramente del libero arbitrio in una maniera spaventosa. Allora, hanno trovato nell'ambiente pentecostale di matrice wesleyana, naturalmente, il terreno fertile per promuovere il cosiddetto libero arbitrio. Allora senti dire tutte queste scelleratezze. Siamo stati noi che abbiamo voluto essere salvati. Addirittura alcuni arrivano a dire siamo stati fortunati, proprio non hanno capito proprio niente. Poi altri dicono siamo stati noi che abbiamo scelto il Signore. Tutte cose che non sono assolutamente vere. Ecco perché naturalmente quando io cominciai a scrivere e a predicare il proponimento e le lezioni di Dio ricevetti tanta opposizione dall'ambiente pentecostale di matrice wesleyana. Naturalmente non sapendo che c'erano anche i massoni in quel, diciamo, tra costoro che mi venivano contro. Però devo dire anche questo, che benché, diciamo, ho avuto molta opposizione sin dall'inizio, devo dire che nel corso degli anni la verità del proponimento dell'elezione di Dio è dilagata, grazie a Dio. Attenzione, io non mi prendo meriti perché ha compiuto tutto il Dio ha operato in me. Dio ha operato in me il volere e l'operare secondo la sua benevolenza e tramite me, ha operato affinché il proponimento delle lezioni di Dio si diffondesse sempre di più, soprattutto nell'ambiente pentecostale. Guardate che, perché alcuni non sanno come stavano le cose, come stessero le cose a quel tempo. Allora, noi siamo qui nel Lazio, siamo venuti nel Lazio nel 1990, Allora, io ho cominciato a scrivere, già lo insegnavo a voce, però fu nel 1994 che io cominciai a scrivere insegnamenti, esortazioni, tra cui anche il proponimento dell'elezione di Dio. E cominciamo a mandare, i miei trattati un po' per tutta Italia, no? Gratuitamente. E il primo trattato, mi ricordo ancora, trattava la predestinazione. E guardate che fu veramente una novità assoluta nel movimento pentecostale, un pentecostale che insegnava il proponimento delle lezioni di Dio, era qualche cosa di molto molto molto anomale, e infatti ricevetti molta opposizione. Perché a quel tempo, nell'ambiente pentecostale, proclamare il proponimento delle lezioni di Dio significava essere etichettati come degli eretici, venivi espulso. Dalle ADIP, dalle Assemblee di Unità, per esempio, venivi espulso. Ma proprio, certo, c'era una certezza matematica. ma anche da altre denominazioni di matrice wesleyana che appunto insegnavano il libero arbitrio, se tu cominciavi a predicare dal pulpito al proponimento del Signore di Dio, venivi cacciato, ammonito. Poi, se diciamo non abbandonavi il proponimento del Signore di Dio, ti cacciavano via. Allora, all'inizio abbiamo ricevuto molta, molta opposizione, però devo dire, grazie a Dio, che con il tempo sempre più anime hanno accettato il proponimento delle lezioni di Dio, ascoltando le mie predicazioni, leggendo i miei scritti. Quindi io ho piantato, o altre volte ho annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Io ho piantato la parola di Dio, la parola di Dio non procede da me, procede da Dio. E colui che l'ha fatta crescere, e colui che la fa crescere, chi è? È Dio. Quindi l'accettazione, come Dio ha operato in me per farmi accettare il proponimento dell'elezione di Dio, così ha operato in tanti altri per fargli accettare il proponimento dell'elezione di Dio. E come Dio si usò di quell'autore straniero, no? Per farmi accettare il proponimento dell'elezione di Dio, così poi Dio ha cominciato a usarsi di me per far accettare il proponimento dell'elezione di Dio a tanti, tanti, tanti credenti. Poi naturalmente ci sono sempre quelli, no, che adesso, gonfi come sono, vogliono far credere che non è stato, diciamo, tramite la mia predicazione o tramite i miei scritti. Vabbè, ma questo te lo devi sempre aspettare, no? Perché, capito, sono venuti qua magari per mesi, magari qualcuno è venuto qua per mesi, e l'abbiamo ammaestrato, io e mio fratello dalla mattina alla sera sul proponimento delle lezioni di Dio, tante volte, poi dopo, magari adesso dice no, ma io non l'ho imparato dai fratelli Butindaro il proponimento delle lezioni di Dio, cioè non sapeva discernere manco la destra dalla sinistra quando è venuto qua, quando l'abbiamo incontrato, non sapeva discernere la destra dalla sinistra, ma non solo lui, tanti altri, capito? Cioè non sapevano le cose, ma le cose le più semplici, le cose le più elementari, non le conoscevano, Sgranavano gli occhi quando ci sentivano insegnare, predicare, e dicevano: non ho mai sentito predicare queste cose, non ho mai sentito insegnare nessuno come te, fratello Giacinto. E adesso vanno in giro a dire che hanno ricevuto una sorta di illuminazione dal cielo, Hai capito? Naturalmente io sparisco poi naturalmente dal racconto della loro vita, perché devono far credere che bugiardi che non sono altri. Questi qui, bugiardi, ci sono anche questi, ma voglio dire, ma non siete nemmeno onesti intellettualmente, cioè fate veramente ribrezzo persino al mondo fate ribrezzo, tanto siete bugiardi proprio, cioè ma io le cose le racconto nella mia vita come sono avvenute, questi qui le raccontano come non sono avvenute, ma comunque tanto la verità viene sempre fuori, e quando viene fuori li schiaccia proprio, li annienta questi bugiardi, ma io mi viene da ridere, credetemi, mi viene da ridere, no? È come se tu avessi insegnato il mestiere, no? Facciamo un esempio, no? Al vicino di casa, gli ha insegnato proprio il mestiere, proprio dall'inizio, E poi questo qui un giorno lo incontri che dice, ma sai, io ho imparato da me stesso. Lo senti dire, ma sai, io ho imparato da me stesso questo mestiere, che effetto ti farebbe? È la stessa cosa con alcuni, ma perché sono gonfi, sono arroganti, sono stolti, micidiali, bugiardi, calunniatori, per loro la menzogna è come la verità, vabbè questo poi lo scopri dopo naturalmente, non è che puoi saperlo subito. Però comunque la verità viene sempre fuori. E allora vi stavo dicendo che all'inizio fu forte l'opposizione, ancora oggi naturalmente ci sono quelli che si oppongono, però devo dire che almeno nell'ambiente pentecostale il proponimento delle lezioni di Dio si sta diffondendo sempre di più. Ci tengo a dire che quando io naturalmente, voi lo sapete, ma comunque ci tengo a ribadirlo, che io predico la predestinazione, ma non sono un calvinista, Lo ripeto, non sono un calvinista, sapete perché? Perché io non accetto la predestinazione insegnata dai calvinisti. La predestinazione insegnata dai calvinisti, infatti, insegna che un credente non può assolutamente perdere la salvezza. Io insegno invece quello che dice la Sacra Scrittura. Se lo rinegheremo, anche egli ci rinegherà. Quindi esiste la possibilità di perdere la salvezza per un credente. Non solo esiste la possibilità, ma ci sono anche credenti che hanno perso la salvezza. Infatti Paolo, lo scrittore agli ebrei, scusate, diceva: ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ci tengo a dirlo questo, perché? Perché sin dai primi momenti, quando mi sentirono predicare sulla predestinazione o l'essere i miei scritti, cominciarono a mettere in giro una calunnia nei miei confronti, che io insegnassi una volta salvati sempre salvati, perché ero calvinista. No, io non sono mai stato calvinista e mai lo sarò, perché Calvino è vero che insegnava la predestinazione, ma insegnava anche tante menzogne, tra cui anche l'impossibilità di perdere la salvezza per il credente. Vabbè, ma poi insegnava il battesimo dei bambini, e insomma Calvino ne ha insegnate di menzogne, attenzione quando si parla di Calvino. Peraltro Dio ha voluto che io nascessi proprio nella stessa città dove nacque Calvino, il riformatore, Noyon, in Picardia, in Francia. E Dio ha voluto così. Peraltro, quando scoprì questa cosa qui, dissi: ma guarda un po', Dio ha voluto che nascessi proprio a Noyon, dove è nato il noto riformatore Calvino. Però a Noyon è nato chi confuta Calvino, non chi segue Calvino. Chi confuta Calvino, e io sono contento di confutare anche Calvino. E qui, perché naturalmente una volta salvati, sempre salvati, è una falsa dottrina. Peraltro era proprio questo il punto che era di ostacolo a molti, no? Perché dicevano: ma Butindaro è calvinista. No, Butindaro non è calvinista, assolutamente. Infatti poi ci sono stati fratelli che hanno accettato proprio la predestinazione che predico, perché hanno capito che predico sì la predestinazione, ma non sono calvinista, io non insegno una volta salvati, sempre salvati. Quindi perché ho voluto, raccontarvi brevemente come il Signore mi ha fatto accettare il proponimento dell'elezione di Dio e rigettare quindi il libero arbitrio? Perché con questa mia testimonianza voglio essere di incoraggiamento a tutti coloro che sono perplessi, che stanno passando un momento particolare, nel senso che stanno investigando le scritture e stanno scoprendo che quello che dice la loro denominazione, qui naturalmente mi riferisco alla loro denominazione pentecostale, è in netto contrasto a quello che dice la Sacra Scrittura. Ora, a questi fratelli, perché io li considero tali, perché si sono ravveduti, hanno creduto nell'Evangelo, dico questo, fate questo. Allora, mettete da parte tutti i manuali delle scuole domenicali, mettete da parte tutti i commentari che avete, se avete dei commentari. Fate questo, mettetevi in ginocchio, pregate il Signore, pregatelo intensamente. Mettetevi davanti la vostra Bibbia e investigate le scritture e chiedete al Signore di aprirvi la mente per intendere le scritture, di farvi intendere le scritture. L'ho fatto io quando mi misi a studiare le Sacre Scritture e chiedevo al Signore, dammi intendimento delle Sacre Scritture, perché io non le conosco, fammi intendere come stanno veramente le cose, fammi tagliare rettamente la tua parola finché non rimanga confuso, preservami, non farmi accettare interpretazioni sbagliate della tua parola. E il Signore, come ha esaudito me, esaudirà pure te e ti farà accettare il proponimento dell'elezione di Dio, ti farà forza e ti vincerà. Ti persuaderà e tu ti farai persuadere, perché il proponimento dell'elezione di Dio è verità. non è una dottrina inventata da qualcuno, no, è una dottrina biblica, una dottrina biblica. Non ti fare spaventare dunque da coloro che, diciamo, ti contrastano, perché sono ignoranti, non conoscono le scritture, non conoscono la potenza di Dio. Non ti fare spaventare dai loro insulti, dalle loro offese, dalle loro minacce, perché avviene pure questo. Ma allora il vostro Dio, tu presenti un Dio ingiusto, Ma allora noi siamo, che cosa siamo? Dei robot nelle mani di Dio? Così ti fanno tutti questi ragionamenti. Poi a qualcuno gli dicono: ma tu sei una creatura di Butindaro! Pensate un po' voi cosa arrivano alcuni a dire. Solo perché magari i fratelli ascoltano le mie predicazioni, leggono quello che scrivo, io divento proprio appunto il creatore di queste persone. Ma io non sono il creatore di nessuno. Queste sono figlioli di Dio che il Signore visita nella sua fedeltà e gli apre la mente per intendere le scritture e per fargli accettare questa importante parte del consiglio. Allora non temere, non spaventarti nella maniera più assoluta, perché è proprio quello che loro cercano di fare, di spaventarti per farti rigettare questa parte del consiglio di Dio, ma tu rimani saldo nella fede, rimani saldo nella verità e vedrai, ti dico questo anche, vedrai che quando tu accetterai il proponimento delle lezioni di Dio, a parte il fatto che sarai ricolmo di gioia, sarai ricolmo di riconoscenza verso l'Iddio vivente e vero, comprenderai veramente la grazia, che cosa significa essere salvati per grazia, ma poi vedrai che Dio ti confermerà proprio quello che tu hai accettato in tante maniere, vedrai la mano di Dio nella tua vita operare in maniera tale che dirai: Signore ti ringrazio perché mi stai confermando quello che dice la tua parola. D'altronde, ricordati, la scrittura è la parola di Dio. Quando tu accetti la parola di Dio, Dio è dalla tua parte e ti confermerà in quello che tu hai accettato. Io l'ho visto nella mia vita, il Signore mi ha ampiamente confermato in quello che appunto predicavo già moltissimi anni fa. Considerate che io ho cominciato allora con lo scritto nel 1994 a parlare di predestinazione, però chiaramente già ne parlavo prima, intendiamoci, perché io già accettai la predestinazione nella seconda metà degli anni 80. Poi nel 90 partimmo per il Lazio e già insegnavo il proponimento delle lezioni di Dio. Mi ricordo una volta eravamo in macchina con io e mio fratello eravamo in macchina, stavamo andando a Ostia ed eravamo in macchina con un pastore pentecostale, no? Mi ricordo che parlando delle cose di Dio proprio accennai solo alla predestinazione, era il 1990. Come mi aggredì! Ma perché a quel tempo era un argomento tabù, un argomento tabù. Guai a chi predicava la predestinazione. Siamo nel 1990, se non ricordo male, eravamo, credo, a cavallo dell'estate e dell'autunno del 1990. No, questo giusto per farvi capire. Per esempio, mi ricordo anche che quando nel 94 mandammo il primo trattato che appunto trattava sulla predestinazione, mi arrivò una lettera dopo un po' di tempo di uno di questi pastori pentecostali gonfi, arroganti, presuntuosi, che mi scherniva appunto perché io insegnavo la predestinazione. E insomma, questo giusto per farvi capire appunto a quel tempo quante fosse veramente diciamo, come si dice, cosa comportasse insegnare pubblicamente il proponimento delle lezioni di Dio. Però ringraziamo il Signore, naturalmente, siamo grati a Dio per tutto quello che ha operato in noi e per mezzo di noi, perché voglio veramente dirlo con forza, voglio dirlo con forza. L'Apostolo Paolo, guardate, dice queste parole ai santi di Tessalonicesi, eh? Marcatevi queste parole, fratelli, marcatevi queste parole. Dice così, per capitolo 2 di Prima Tessalonicesi, da versetto 13, dice: e per questa ragione anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola d'uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Avete notato che cos'è che opera efficacemente in coloro che credono? La parola di Dio. Dio fa crescere la sua parola. Come l'ha fatta crescere in me, così la fa crescere in tutti coloro che appunto sono suoi figlioli. E naturalmente poi Dio si usa di ciascuno di noi, però noi rimaniamo sempre degli strumenti. Non ci dobbiamo mai vantare assolutamente, mai attribuire cose che appunto non ci appartengono, perché colui che fa crescere è Dio. Infatti vi ricordo anche queste parole di Paolo ai santi di Corinto, dice: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma è Dio che fa crescere è tutto. Quindi Dio che fa crescere tutto. Quindi il proponimento dell'elezione di Dio è parola di Dio e opera efficacemente in coloro che credono. Non abbiate alcun dubbio su questo. Quindi vi stavo incoraggiando a non avere paura, a non temere gli assalti dei sostenitori del libero arbitrio, perché quelli che sostengono il libero arbitrio sono essenzialmente delle persone ignoranti, molti dei quali peraltro non sono nemmeno nati da Dio. Si nascondono dietro il libero arbitrio molti che non sono da Dio. Poi ci sono quei credenti che, come me, all'inizio avevano accettato il libero arbitrio nella loro ignoranza e poi lo hanno rigettato. Però sappiate questo, che molti di quelli che sostengono il libero arbitrio nelle denominazioni sono peccatori sulla via della perdizione. Ci sono molti massoni nelle denominazioni e questi sostengono tutti il libero arbitrio. Tutti il libero arbitrio. Quando li sentite parlare del libero arbitrio, guardate, c'è da rabbrividire. Perché escludono proprio la volontà di Dio, la sovranità di Dio. E insomma, sono dei nemici di Dio. Quindi, fratelli e sorelle nel Signore, ho voluto raccontarvi come il Dio mi ha fatto accettare il proponimento dell'elezione di Dio e quindi mi ha fatto rigettare il libero arbitrio. Lo ringrazio a distanza di tanti anni e sono sicuro che questo mio racconto produrrà abbondanza di ringraziamenti a Dio, in particolare in coloro che hanno accettato e che accetteranno il proponimento dell'elezione di Dio grazie alla mia opera nel Signore, un'opera benedetta da Dio, perché è voluta da Dio, preordinata da Dio, e a Lui quindi va la gloria per tutto quello che ha operato, che opera e che continuerà a operare. La gloria ora in eterno in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.